morte e al nulla. E il nostro popolo ha radicata nell'anima la fede nell'aldilà. Tu non puoi credere a quali acrobazie di prudenza ricorre questa povera gente per far dire un De Profundis sulla tomba di un loro caro sepolto da poco. A quante strategie ricorre per avere a Pasqua un pezzo di pane benedetto da distribuire in tavola? Dopo il saluto familiare? Cristo è veramente risorto. Tutto questo? Fratello mio? Lo sappiamo e ci commuove profondamente. Allora, perché gli italiani vogliono andare sotto il comunismo? Perché moltissimi credono più al diavolo che a Dio. Ecco la verità. Qui i nostri giovani hanno imparato che solo il cristianesimo dà la massima importanza ai diritti della persona umana. Il socialismo parla solo di collettivismo. Di massa. L'individuo non esiste. Di questo passo. C'è da sperare che il più grande stato comunista del mondo, per la logica delle cose, possa evolversi nella più grande forza anticomunista. Lo pensiamo tutti. Fratello. Anche se siamo in pochissimi a dircelo. Perché è orribile il terrore che si ha dei processi. Del lavaggio del cervello. Dei lager disseminati su tutto il territorio russo. Qui. L'ideologia marxista si regge unicamente sulla violenza. Ma il giorno che questa ideologia cadrà, Dio solo sa quando la Russia si presenterà con un volto completamente nuovo. Religiosamente provata e purificata. Grazie all'esperienza di un martirio che nessun popolo ha subito. Noi confidiamo molto nelle promesse della Madonna di Fatima. Oh? La Santa Madre di Dio. Sapessi come la venera il nostro popolo. È lei che ha conservato sia pure in certi momenti molto ridotta la nostra fede. Le sue icone sono scomparse da quasi tutte le case. Ma tantissimi le conservano nascoste. E soprattutto la invocano. Credi che non lunga scadenza l'opposizione dei giovani? Degli intellettuali? Della classe che riflette? Possa aumentare? Per me è cosa certissima. E questo avverrà man mano che progredirà la gioiosa scoperta della fede cristiana e la persuasione, in molti già radicata, che il cristianesimo è la sola forza capace di cambiare il mondo. Se tra voi si raccogliessero le voci dei nostri convertiti dal materialismo, penseresti che qui sta avvenendo il miracolo di una nuova Pentecoste. Posso dirti che molte di queste voci arrivano nel nostro paese. Vi sono anche antologie che le raccolgono? Ma purtroppo non tutti le conoscono e le leggono. Conserviamo lettere che giungono dai lager. Sono di uomini? Di donne? Di giovani condannati che ci incoraggiano a conservare intatta la nostra fede in Dio. Impossibile leggerle senza fremere e senza piangere di commozione. L'invito di un fratello annunciò la recita comune del Padre Nostro. Qui mi svegliai. Ma mi accorsi che a strapparmi dal sonno era stato un grosso colpo alla porta della camera. Guardai l'orologio. Erano ancora le ore piccole. Un nuovo colpo mi fece sussultare e gridai. Chi è? La risposta fu una sghignazzata folle e sconcia che mi avvertì subito della presenza di lui. Maligno. Che bel sogno. Ti sarà piaciuto molto? Penso. Chissà quanta gioia avrai provato. Ripensandoci. Saresti capace di crederle tutte quelle belle notizie. Che ne dici? Padre Mondrone. Certo. Le credo tutte come cose vere. Maligno. Non mi meraviglio. Conosco la tua ingenuità. Credi anche nei sogni. Padre Mondrone. Quanti sogni son venuti da Dio. Maligno. Allora saresti capace di provarmi che una sola di tutte quelle chiacchiere risponda a verità? Su. Dammi qualche prova. Rimasi per un po' in silenzio. Poi, stringendo forte tra le mani la corona del rosario, mi levai a sedere sul letto e con tono di comando dissi: visto che vieni a sfidarmi, in nome di colei che è la tua principale nemica ti comando di dirmi se in quel sogno ci sia stata una sola menzogna. Maligno. È tutta una menzogna. Padre Mondrone. Tu devi rispondermi in nome di lei. Ti ho detto? In nome di lei. Invece di rispondere il maligno si imbestialì come non aveva mai fatto. I mobili della camera cominciarono a spostarsi in modo vorticoso. Un tavolino si mise a ballare. Una sedia a volare da un punto all'altro della camera. Padre Mondrone. Invece di fare questa commedia, ti ordino di rispondere. Dimmi che in quel sogno era tutto vero. In nome di Maria te lo comando. Rispondi. Lo sentii ansimare come un leone ferito a morte. Un sì. Urlato con uno sforzo angoscioso fece tremare la camera ed echeggiò disperatamente nella lontananza. Vi gradi incontro i suoi bersagli preferiti? Questa volta passò un'intera settimana senza che il maligno desse segno della sua presenza. Tra noi non tutto era stato detto? Per cui volentieri ne attendevo il ritorno. Un pomeriggio mi accingevo alla recita dei Vespri quando il grosso calendario olandese appeso alla parete di fronte cominciò a sventagliare i suoi fogli come investito da una folata di vento. Padre Mondrone. Nel nome di Maria. Dimmi da dove vieni. Maligno. La tua è una domanda stupida. Padre Mondrone. Perché stupida? Maligno. Perché io non sono in nessun luogo. Non sono un corpo. Una carrugna come te. Sono spirito. Padre Mondrone. E l'inferno? Maligno. L'inferno non è come voi pretonzoli lo andate descrivendo. Padre Mondrone. Ma tra voi spiriti dannati vi conoscete? Maligno. Certo. Ci conosciamo e ci odiamo come odiamo tutti voi. Come odiamo lui. Viviamo avviluppati ognuno in una solitudine eterna. Ma siamo d'accordo nel lavorare ai vostri danni. Padre Mondrone. Non vivete che di questo. Maligno. La nostra essenza è il male. È il rifiuto di lui. È odiare tutto e tutti. Padre Mondrone. La sola e miserabile soddisfazione che vi resta. Maligno. Nessuna soddisfazione. Padre Mondrone. Non capisco. Spiegati. Maligno. Voi immaginate che per noi odiare, far del male, rovinare le opere di lui ci dia una soddisfazione, una specie di sollievo, una gioia. Il nostro nemico ci ha negato anche questo. Noi facciamo il male per il male. Intralciare il disegno di lui. Strappar gli anime. Specialmente quelle a lui più care. Non procura a noi nessuna soddisfazione. Anzi, lui ce lo fa pesare come un castigo. Ma esercitare il nostro odio. La nostra natura maligna è una necessità. Tuttavia agiamo a suo dispetto. Per far del male alle sue creature. Padre Mondrone. Tutte queste belle cose le sappiamo. Due prima definirti quello che sei è stato Gesù. La Chiesa ce lo ripete nei suoi insegnamenti e anche i santi ci mettono in guardia. Sappiamo che sei il maligno. Che sei il nemico per eccellenza. Che sei omicida fin da principio. Che sei il padre della menzogna. Che sei un mistero di iniquità. Che sei il principe di questo mondo. Finché Dio te lo consentirà. Può bastare per il tuo ritratto? Maligno. Forse. Ma con ciò? Padre Mondrone. Vuoi dire che gli uomini, nonostante questo, si lasciano adescare dalle tue arti? Lo so. Se riflettessero su quello che sei e quello che trami contro di loro, starebbero in guardia. Perciò, da padre della menzogna e da spirito delle tenebre, ti trasfiguri in angelo di luce. Ti presenti loro non come sei un maestro di corruzione, ma come un abile consigliere. Ma dimmi un po', hai parlato di anime a lui più care. Quali sono? Maligno. Dovresti saperlo. Quelle più legate alla sua amicizia. Quelle che egli riesce a tener sempre legate a sé. Quelle che lavorano e si consumano per i suoi interessi. Che hanno a cuore la sua gloria. Un malato che per anni soffre e si offre per gli altri. Un prete che gli si conserva fedele. Che prega molto. Che non siamo mai riusciti a contaminare. Che si serve della messa, di quella tremenda maledetta messa, per farci un male immenso e strapparci moltitudini di anime. Questi sono per noi gli esseri più odiosi. Quelli che più rovinano gli affari del nostro regno. Padre Mondrone. Sentirlo dalla tua bocca è per me una gioia immensa. Maligno. È quella là che me lo fa dire. Che mi fa rispondere alle tue stupide domande. Padre Mondrone. E allora continua a parlare. A tuo dispetto non puoi farmi che del bene. Dunque? Dicevi. Le anime che tu odi di più. Maligno. Sono anche quelle che prendiamo più fortemente d'assalto. Far cadere un prete ci ricompensa di 1000 anime strappateci da un altro. Travolgere un prete e poi mandarlo, insozzato, a celebrare la messa è tra i dispetti più grossi che miriamo a infliggere al nostro grande nemico. E ci riusciamo più di quanto non si creda. Padre Mondrone. Purtroppo. Ma accanto a queste anime elette cadute, so che lui, nel silenzio e nel nascondimento, ne suscita molte altre che si immolano. Che riparano e gli danno una gloria più grande di quella che tu hai creduto di strappargli. Maligno. Non importa. A me preme incrementare il numero dei preti che passano dalla mia parte. Sono i migliori collaboratori del mio regno. Molti o non dicono più messa. O non credono a ciò che fanno all'altare. Alcuni di essi li ho attirati nei miei templi, al servizio dei miei altari, a celebrare le mie messe. Vedessi che meravigliose liturgie ho saputo imporre loro a sfregio di quella che celebrate nelle vostre chiese. Le mie messe nere, celebrazione di lussuria, profanazione di ostie e di altre cose sacre, insozzati in modo che quella non mi permette di descriverti. Che belle nefandezze. Leggi i miei rituali. Intanto. Padre Mondrone. Sei eterna scimmia di Dio. Maligno. Ho aspettato questi ultimi tempi per fare le mie più grosse conquiste. Preti. Frati. Verginelle consacrate a lui. E il loro numero cresce in modo che, se fossi capace di gioirne, sarebbe la mia gioia più grande. Padre Mondrone. Ciò che dici è triste. Ma, ripeto, io so che una sola messa, offerta a Dio in riparazione di tutte queste orribili cose, gli darà sempre una soddisfazione infinitamente più grande. Due, valore infinito del sacrificio di Cristo supera le tue profanazioni. Maligno. Parli sempre di anime riparatrici. Ma anche queste so io come trattarle. Come sfogare su di esse il mio furore. Scarico su di loro un odio che mi ripaga di tutto il danno che recano ai miei interessi. Padre Mondrone. Lo so. La storia della santità è piena nella misura in cui Dio lo permette di questi tuoi interventi malvagi. Ma con quale risultato? Che cosa ne ottieni? Maligno. Che posso stancarli. Abbattere la loro resistenza e portarle al fallimento. Padre Mondrone. E ci riesci? Dio te lo consente? Per il solo fatto che egli ti lascia sfogare il tuo odio contro queste anime. È segno che le ha rese invincibili. E tu? Con i tuoi attacchi. Collabori soltanto all'accrescimento dei loro meriti e lavori contro te stesso. Contribuisci solo a renderle più sante. Più ricche di efficacia riparatrice e conquistatrice nel mondo delle anime. Quanti peccatori non ti hanno strappato Caterina da Siena? Teresa da Vita. Il curato d'Ars. Don Bosco. Padre Pio. Maligno. Almeno mi vendico e faccio loro pagar caro il danno che mi infliggono. Padre Mondrone. Lo fai da pessimo calcolatore. Dio te lo permette perché tu collabori a dimostrare la potenza della sua grazia e per la tua maggiore umiliazione. Perché tutte le volte che prendi di mira queste anime il vinto sei tu. Maligno. Tu però. Denunciando questi miei interventi, otterrai solo di far ridere i teologi e i sapienti. Padre Mondrone. Ridano pure ... finché possono. A questo punto i fogli del calendario si misero di nuovo a sfarfallare. Pensai che il maligno li agitasse per darmi il suo commiato. Ma mi sbagliai. Perché riprese a parlarmi con una nuova carica di odio e di disprezzo. Maligno. Tu non potrai mai capire quanto io odio voi uomini. Quanto vi detesto e quanto siete detestabili. Voi vi vantate di avere un primato di dignità sulle bestie e non vi rendete conto che siete le bestie più abominevoli. Secondo vostro essere mi fa schifo. Vi considero al di sotto dei porci. Credete di essere intelligenti. Ma vi dimostrate stupidissimi. Basta vedere quello che vi faccio ingoiare per mezzo di tanti sapienti messi al mio servizio e che io vi regalo gonfi di superbia e di menzogna. Pensa a quello che vi faccio bere e digerire con la mia stampa. Voi la più nobile creatura di lui? Ma se bastano poche porcherie per comprarvi, vi arrendete facilmente alle lusinghe dei miei messaggeri. Ci tenete tanto alla vostra libertà e poi vi lasciate incatenare dai miei più feroci schiavisti.